E nella notte tiepida, dal firmamento splendente, brilla anche una lucciola che la villotta paragona ad un astro che illumina il cuore. Lusignutte lizzerine, che tu vas cence su su, tu sa mei sa che ninine, che mi sta sempre tal cu. Lusignutte gaiarine, io far te diventi mio, venmi donge, ven vicine, che io brami il tolluso. Lusignutte cidinute, come te non de un pa, ven caiu la me frutute, venga fammi un po' di clà. Ven con me, che ti hai amate prima in modi fa l'amor. Ti darai un ebbuzzate, lusignutte dal Signore. Ma una delle più belle elegie alla primavera immagina che la rondine, se ha fatto ritorno da lontano, abbia avuto nostalgia cocente delle verdi colline e del Friuli che ha sempre avuto nel cuore. Dopo in ca che ti sospiri, che ti clami di lontan, ben vignude Sisilute, ben vignude anche che stan. Il bielmeso moretine le tornato i flors in man. Anche tu tu sei stornate, ben vignude anche che stan. Qua su vie morute biele, dimmi dimmi chiare tu, bessoline tan lontane, ce facevi tu laiù? Io scomet che tu tu vevi sempre in cur il mio friù, che sti sverdi sculinuti, che ste linde, che spuiù. Dopo il corpo che ti sospiri, e con la primavera l'amore è ancora il tema dominante. Questa villotta, infatti, con purezza di immagini e di sentimenti, parla di due innamorati che sotto il tremolio delle stelle bisbigliano parole dolci guardandosi fissi negli occhi. Araquei ti voi di stelis dal gran prad al firmament. Iempli il zei culis pluibielis, e po' torni dal moment. Plan planchin, une par une, vie pegnotue la cirin. Mi farai prestada lune, la sossesule darin. Il suono gaio delle fisarmoniche vi riporta ora con il pensiero alle semplici sagre di Pasqua, di squisito sapore locale, durante le quali sui verdi colli e sui prati fioriti si consumano focaccia, uova sode, radicchio e si beve il buon vino del Friuli e si canta e si balla all'aperto per festeggiare in allegria la Pasquetta e la primavera che ritorna. È questo, amici lontani, il caro volto della primavera del Friuli, che con i suoi canti vi porta a sognare questa terra ricca di poesia, di semplicità e di calore. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 66esima trasmissione dedicata agli emigrati. Testo ed adattamento di Ermete Pellizzari. Hanno collaborato Ottavio Valerio e il coro di San Lorenzo di Sedegliano, diretto dal maestro Leandro Plenizio. e il gruppo corale di Felipe Umberto, diretto dal maestro Armando del Fa, diretto dal maestro